La versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:30 primi 32 secondi in diretta qui da gli studi di Radio 24 di Milano. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazio per l'ascolto in diretta in podcast e vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it per segnalare spunti di trasmissione. Anche questa è una trasmissione che origina, come vedrete tra pochissimo, dal basso, da richieste di ascoltatori, e naturalmente scrivete anche poi per qualunque altra cosa. Non scrivete per chiedere come si vota il referendum, perché come sapete io appartengo a quei controllori della 24 che aderiscono alla richiesta pressante aziendale di non dire come si vota, e non lo facciamo, anche per evitare poi che l'Agcom ci metta nel computo del tempo. Ci mancherebbe altro, già è una follia rispettare i criteri molto discutibili della par condicio, e quindi evitiamo su questo. Del resto mancano pochi giorni. Vi ricordo che per intervenire il numero di telefono è 800 24 00 24, per gli sms 349 238 6666. Questa puntata è dedicata quindi in particolare, se siete soggetti interessati alla questione, telefonateci per segnalare il vostro caso, alle cartelle pazze, a un sottinsieme delle cartelle pazze, ma intanto il fenomeno è quello delle cartelle pazze, cioè dei titoli esecutivi mandati da Equitalia, dall'amministrazione tributaria che si occupa della riscossione, in cui si chiede di regolare un pregresso non pagato di imposta, magari con stazioni interessi come ovvio, oppure di contributi non pagati dai contribuenti e dai lavoratori nel caso dei contributi. È un fenomeno gigantesco in Italia per ammissione delle stesse cifre ufficiali. Io vi ricordo solo questo, e cioè che sul totale delle riscossioni affidate a Equitalia da parte dei diversi soggetti pubblici, che dal 2006 al 2015, quindi in 10 anni, sono montati alla somma abbastanza spettacolare di 1058 miliardi di euro, anzi non in 10 anni, in 15 anni, queste sono le cifre ufficiali, dal 1 gennaio del 2000 al 31 dicembre 2015 sono andati in riscossione l'equivalente di 1058 miliardi di euro. Su questi 1058 miliardi di euro ben un quinto ricade nella categoria delle cartelle pazze, cioè di richieste infondate da parte dei diversi soggetti che hanno affidato la riscossione esecutiva a Equitalia. Cioè stiamo parlando in 15 anni di 217 miliardi di euro, che hanno rappresentato però all'atto della ricezione da parte del contribuente o del lavoratore in caso di contributi colpi apoplettici per 217 miliardi. Queste sono le cifre ufficiali rilasciate dalla stessa Equitalia, non sono io a gonfiarle perché sarei nemico dello Stato che si vuol far pagare. Al contrario, questo ci dà l'ordine di grandezza degli errori dell'amministrazione tributaria italiana. E in questa sottocategoria la segnalazione che abbiamo ricevuto oggi è quella che riguarda una categoria, forse bisogna pensare, il cui numero non è tale da impensierire troppo lo Stato, l'amministrazione tributaria e la politica, che come sapete ai numeri delle categorie è molto sensibile, e che si trova a ricevere delle cartelle di ammontare pazzesco per un problema che non è l'infondata pretesa, è ancora più difficilmente digeribile. Perché stiamo parlando degli autori e dei lavoratori dello spettacolo, questa è la categoria in particolare di cui parliamo, che fino ad anni fa versavano e dovevano quindi i loro contributi per la parte dipendente, poi ci sono le imprese ovviamente che nei contratti danno per la parte datoriale una percentuale del 33,3% che paghiamo in contributi, corrispondevano i loro contributi a un ente diverso dall'INPS, e che poi anni fa nella politica di estensione progressiva di tutti gli enti, lo sapete, l'INPDAP, l'INPDAI per i dirigenti e così via, ha anche assorbito l'ente previdenziale che riguardava gli autori e i lavoratori dello spettacolo, l'EMPALS, appunto, come diceva la sigla. Il piccolo problema è che i casi di cui sentirete parlare adesso testimoniano che, malgrado questo assorbimento per fusione all'interno dell'INPS sia avvenuto da anni, come è evidente c'è qualche cosa che continua a non funzionare. perché la quantità e l'ammontare pazzesco delle cartelle che i lavoratori di questo settore si vedono recapitare testimonia che lo Stato non riesce ancora a capirci niente di quello che ha messo insieme. E voi capite che nell'epoca del digitale e mentre lo Stato giustamente ci chiede di aderire oramai a procedure di soddisfazione dei servizi tutte digitalizzate, la PEC e non la PEC, lo SPID e non lo SPID, i bonus per esempio ai diciottenni, agli insegnanti, sono tutti fatti con dei marketplace elettronici. Quando però si tratta di incassare, fa finta di non adottarli lui per primo queste procedure, non legge quello che ha già incassato e ti fa venire un colpo apoplettico chiedendoti delle cifre astronomiche. Allora, per parlarne abbiamo con noi due ospiti che ci hanno appunto segnalato questo caso, perché parlare in generale vuol dire poco, bisogna farsi raccontare che cosa avviene davvero in concreto. Allora, è in studio innanzitutto un'attrice, doppiatrice, speaker, Alessandra De Luca. Buon pomeriggio, Alessandra. Buon pomeriggio. Ed è collegato con noi Luca Semeraro, doppiatore, direttore di doppiaggio, che fa parte del consiglio direttivo del SIAD, cioè il sindacato indipendente degli attori doppiatori. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Luca. Buon pomeriggio, grazie a voi. Allora, Alessandro, ci puoi raccontare innanzitutto il tuo caso? Allora, il mio caso è semplicissimo. Fate conto che sul 100% che io ho avuto come reddito nell'anno, in questo caso 2014, io ho pagato i contributi cosiddetti ex EMPALS per l'80%, per il 20% ho versato i contributi IMSS. Perché la famosa rivalsa, esatto. Sì, il 4% di IMSS, e quindi vado io a saldare tutto ciò che manca per arrivare più o meno a quel 32-33%, quello che è. E perché, ricordiamolo a chi non lo sa, sull'anno relativo, hai detto che era 2014. Ecco, quindi la fusione era già avvenuta nel 2011. E all'atto della fusione voi siete stati chiamati appunto a questa integrazione che dipendeva dai diversi regimi precedenti. Sì, qualcuno ce l'ha anche comunque da prima, perché ci sono dei lavori su cui non si può pagare l'EMPALS, è un altro buco fiscale, diciamo. Ci sono dei lavori su cui, non potendo pagare l'EMPALS perché il cliente per cui lavori non è un soggetto EMPALS, esatto, non è iscritto all'EMPALS, tu dovevi pagare l'IMSS, esatto. Ok? Quindi 2014, 80% ho versato l'EMPALS, 20% IMSS. La letterina fatidica cosa dice? Cara Alessandra, tu hai pagato i contributi IMSS sul 20%, dacci il restante 80% di IMSS, che ovviamente potete immaginare che sono svariate migliaia di euro. Ci sono colleghi che hanno ricevuto letterine con 15.000, 17.000, chi come me 10.000, altri 9.000, insomma, capite bene che uno apre questa lettera, gli prende un colpo. Per fortuna noi però eravamo molto bene informati, perché questa cosa succede da almeno un anno. Quindi sappiamo di cosa stiamo parlando. La mia commercialista, per esempio, non lo sapeva, le è venuto un infarto e non sapeva come dirmelo. Le ho spiegato io che, per fortuna, grazie al lavoro di persone come Luca Semeraro, con il sindacato e altre persone, ci hanno ben informato in questo anno, quindi eravamo preparati. Tutte queste cartelle sono state, chi le ha già ricevute in questo anno, sono state ovviamente, sono procedimenti che sono stati tutti annullati, perché ovviamente hanno verificato che noi abbiamo pagato, cioè non è che siamo evasori. Però tu cosa devi fare? Quindi, insieme al tuo commercialista, chi per devi te, esatto, sfoderare tutto ciò che puoi. C'è qualcuno che ha dovuto andare con un paccone di roba, solo con l'estratto conto EMPAS. Dipende chiaramente anche dal funzionario che ti trovi davanti. Volevo dire un piccolo particolare. In che senso dipende dal funzionario che ti trovi davanti? Beh, insomma, quanto è disposto a capire il Faccio problema. Finta di non saperlo, per così dire. Quindi vorrei che lo Ci dicessi. Sono colleghi che mi hanno raccontato che sono dovute andare tre volte in tre uffici diversi a tre persone diverse. Chi è andato un'unica volta e ha risolto, perché il problema è palesemente, insomma, risolvibile. Segnalo un particolare. No, però aspetta. Prima di segnalare il particolare. Sì. Tu sei andata fisicamente? No, io ancora no. Ci va domani la mia commercialista, ecco, domani mattina. Ma io voglio capire una cosa. Visto che, appunto, invitiamo tutti coloro che hanno ricevuto, ovviamente, se ancora non lo sanno, a darsi da fare per l'annullamento. Quello che voglio sapere io è questo, parlando con i colleghi che hanno già avuto l'annullamento, visto che tu lo devi ancora porre in essere, quando si va allo sportello, come è evidente, uno dà le ricevute, ma ci sarà un controllo che verifica, no? Se poi l'ente creditore che vanta un credito nei tuoi confronti prima di annullarlo è nelle condizioni di dire all'ente di riscossione: sì, è vero, mi sono sbagliato, risulta anche a me quel versamento, no? Sì. E allora la domanda è: se gli risulta all'atto della richiesta dell'annullamento, perché non gli risultava prima? In realtà non gli risulta esattamente così. Ah, siamo noi risulta. Che dimostriamo con i nostri documenti. Ah, gli spieghiamo è la storia dell'inversione dell'onere della prova. Gli spieghiamo la storia. Ah, e io ho avuto racconti da colleghi che mi hanno detto: il funzionario, davanti ai documenti che abbiamo portato, ha capito il problema, ha forzato il sistema, che non so bene cosa voglia dire, ha inserito dei dati e magicamente la cosa viene risolta in questo modo. Il particolare a cui mi riferivo è molto interessante perché riguarda il fatto che io, Alessandra De Luca, da utente, sì, con le mie password, sì, entro nella database dell'INPS. Con la tua password IMPS, IMPS, sì, entro con la password IMPS, l'ho fatto domenica sera, sì, e mi appare tutto l'estratto conto fatto da contributi IMPS, EMPALS, c'è tutto. C'è la continuità, lo vedo io, delle serie storiche di quello io che hai versato. Io personalmente l'altra sera ho visto i dati fino a luglio 2016. Ma com'è possibile questo? Ecco, cosa, infatti, cosa ti ha detto il commercialista quando gli hai detto com'è possibile che io col mio accesso personale abbia accesso diretto alla regolarità dei miei pagamenti e l'INPS invece chiede? Ha riso. Come ha riso? Ha riso perché non sa cosa rispondermi. Ah, non sa cosa risponderti? No. Interessante, no, tutto questo. No. Quindi questa è la cosa paradossale, no? Che io da cittadina dico: ma se io vedo i dati, perché sì, l'Agenzia dell'Entrata prima di scrivermi non consulta l'INPS e l'INPS non consulta i suoi bei database con tutti i dati? Naturalmente, cari ascoltatori, è inutile che io vi dica che quei 217 miliardi in cui ricade anche questo esempio, quei 217 miliardi di cartelle annullate hanno un costo notevole, come potete immaginare, perché c'è l'ente creditore che pone in atto delle richieste all'ente riscossore, l'ente riscossore che a quel punto istruisce la pratica, l'ente riscossore manda il titolo esecutivo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non è che è una cosa gratis, si ripara l'errore. E questa noi roba paghiamo, costa i commercialisti. L'ira di... Come? Ah, beh, questo fai bene a ricordarlo. No, ma questo sai, i lavoratori dipendenti in ascolto tendono a dimenticarselo, che noi evasori, autonomi, naturalmente dobbiamo anche pagare a spese nostre quello che a tutti gli effetti è diventato funzionario dello Stato, perché il commercialista è questo, con la differenza che però lo paghiamo noi. Quindi da questo punto di vista uno direbbe: una storia di cui non si capisce come possa originarsi. Però a questo punto a Luca Semeraro e a chi come lui, ma noi abbiamo lui a questo punto per il consiglio direttivo del sindacato indipendente attori e doppiatori, voglio dire, il sindacato si sarà fatto parte attiva, vi sarete fatti dare, avete cercato, non so se ve l'ha pieno data, ma avrete cercato una spiegazione a livello istituzionale, no? Dell'INPS, perché Equitalia a quel punto è un mero braccio esecutivo, è l'INPS il problema. E che cosa vi hanno detto, Semeraro? Lettera lunga e articolata all'INPS più di un anno fa, quando appunto sono incominciate a venire fuori queste cartelle pazze, e dove abbiamo indicato anche delle soluzioni evidentemente, ma nessuno ovviamente ha risposto. Ah, non avete avuto risposta? No, assolutamente, come spesso accade, voglio dire, in Italia, in qualsiasi campo, non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Questo è quello che succede, ma vi do di più: i funzionari o chi è addetto allo sportello, molto spesso quando alcuni colleghi sono andati per contestare quello che veniva imputato, non sapevano neanche che lavoro facessimo, non sapevano neanche bene come inquadrarci. Ma come è noto, sorridevano. Non devo insegnare a voi che i lavoratori dello spettacolo sono dei dannati della terra a cui era negata la sepoltura in terra consacrata, quindi evidentemente qualcuno si è perso, che nel frattempo da qualche secolo non è più così, però bisogna questo comprendere. Questo da quando l'EMPALS è entrata nell'INPS, perché prima l'EMPALS funzionava. È un dato che voglio comunicare, che dirvi, è questo: che l'EMPALS aveva un attivo di svariati miliardi. Lei lo sa che nella, adesso lei lo sa, non glielo devo dire io, ma lo ricordo ai nostri ascoltatori, che nella tortuosa strada della fusione, immissione e assorbimento dei diversi istituti previdenziali precedenti alla scelta monogestionale che fa capo a INPS, il problema era che bisognava sommare alcuni istituti, magari più piccoli, che avevano un bilancio di parte, conto economico e patrimoniale attivo, rispetto ad altri che venivano assorbiti e che avevano invece uno sbilancio di conto economico e di parte patrimoniale bestialmente passivo, perché questo è stato il motivo. Tant'è vero che la parte patrimoniale del bilancio INPS da anni e fronteggia un'emergenza crescente proprio a seguito dell'apporto negativo fatto dall'assorbimento di alcuni di questi istituti. Quindi voi rappresentavate, per così dire, un goccio di acqua buona rispetto all'oceano di acqua cattiva. Naturalmente questo si dice che ai lavoratori iscritti non fa alcuna differenza, vedremo se continua a essere vero oppure no. Ma quello che mi colpisce è che a una lettera formale ufficiale, di fronte a un fenomeno che si espande nella categoria, chissà perché poi solo da un anno a questa parte e non già fin dai primi anni di post fusione, nessuna risposta. No, nessuna risposta. In più volevo aggiungere che abbiamo scritto anche al Ministero, oltre che ai funzionari e alla direzione INPS, anche il Ministero del Lavoro non ci ha degnati di alcuna risposta. Io mi faccio parte in causa dicendo qualcuno ci ascolti, proverò a sentirli in questi giorni per vedere, perché la cosa mi sembra francamente singolare a fronte di quello che ci ha raccontato Alessandra De Luca, cioè se un lavoratore con la sua password accede e controlla, sono in regola e questi continuano a mandare, c'è qualche cosa di, che ha del, non voglio dire dell'inesplicabile, però voglio dire qualcosa che si dovrebbe risolvere abbastanza agevolmente, no? Mi viene da pensare molto semplicemente che la mano destra non fa quello che non sa quello, ecco, che fa la sinistra, penso anch'io. Che lei non sia lontano da, con questa cosa di buon senso che spesso però manca in altre parti, per così dire, dell'alte della pubblica amministrazione italiana, perché non riesco a trovare un'altra spiegazione, a meno che uno non voglia essere malevolo. Io non voglio essere malevolo, perché magari c'è anche qualcuno che poi magari le ricevute, spero di nessuno di quelli in ascolto che si trovi in queste condizioni, le ha perse oppure non ha la password per accedere, nel qual caso si munisca della password al più presto prima di pensare di pagare, come è ovvio, perché altrimenti non si spiega proprio come possa. L'iscrizione al sito dell'EMPERS è molto semplice, quindi si può fare in qualsiasi momento via online, quindi quello non è un problema, e immagino che neanche per loro dell'INPS sia un problema andare a controllare. Esattamente. Chi lo sa? E chi lo sa? Cari ascoltatori, come vedete, adesso c'è qualcuno anche al telefono, adesso abbiamo un minuto di informazione stradale, poi devo rispondere a un ascoltatore su un fatto del giorno, perché ho visto, mi state chiedendo un'opinione al volo sulla soluzione da parte del GUP ad Arezzo, della richiesta della procura di condanna agli ex presidenti e amministratori della Banca Etruria, sono stati assolti rispetto alle ipotesi di ostacolo alla vigilanza. Vi dirò in due secondi, appena rientriamo, cosa ne penso, e però poi andiamo anche alle telefonate. Eolo, internet ultraveloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta la versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, 16:50 prima e 45 secondi. Un rapidissimo commento da parte mia a questo fatto veramente singolare, che non mi sorprende tuttavia, cioè la soluzione di fronte all'accusa di ostacolo all'attività di vigilanza da parte della Banca d'Italia ai vertici, ex vertici della Banca Etruria. Il fatto non costituisce reato. In particolare, vedremo le motivazioni della sentenza. L'accusa era quella mossa alla Banca Italia, agli ex vertici della banca stessa, di aver mascherato nel bilancio 2012 degli incagli che invece erano già sofferenze, e di fronte a questo quindi la richiesta successiva di Banca Italia di un aumento di capitale sotto il livello di quanto era l'ammontare di capitale necessario. Il GUP è arrivato alla stessa conclusione, aprite le orecchie, a cui era già arrivato il perito della procura. Il perito della procura aveva detto no, nel 2012, a differenza di quello che dice Banca d'Italia, i criteri su incagli e sofferenze erano quelli stabiliti precedentemente dalla Banca d'Italia, non quelli irrigiditi dopo dalla BCE. Quindi la Banca d'Italia su questo ha torto, infatti è stata, a questo punto cade anche la richiesta di risarcimento che la Banca d'Italia aveva anticipato. Mio commento: non vorrei che si pensasse che Banca Etruria è esplosa perché Arezzo fa freddo e sia morta di raffreddore. Se non era ostacolo alla vigilanza, allora, dal mio punto di vista, non so chi la pensa così in questo gruppo, ma io la penso così, era la vigilanza. perché il giudice sta dicendo che i criteri di Banca d'Italia osservati dalla Banca Etruria erano tali da non assicurare una piena trasparenza di quel bilancio e una piena solidità dei coefficienti patrimoniali. Io sostengo da anni che i regolatori in Italia hanno avuto pratiche collusive. Mi pare che questa sentenza, anche se apparentemente sostiene il contrario, vediamo se nelle motivazioni conferma quello che io adesso vi sto dicendo, ma non significa che il problema è risolto, significa semplicemente che il problema è più serio di un ostacolo di quei dirigenti bancari da colpire, ma riguardava il metodo attraverso cui in Italia si tendeva a non vedere che le sofferenze erano maggiori di quelle che venivano dichiarate. Questa è la mia opinione. Sentiamo come la pensa sull'argomento di cui stiamo parlando, cartelle pazze, gli autori e i lavoratori dello spettacolo, Francesco, che ci chiama da Milano. Prego Francesco. Grazie, buon pomeriggio Oscar, buon pomeriggio ai tuoi ospiti. Niente, no, volevo solo portare la mia esperienza, cioè nel senso sono anch'io un lavoratore, diciamo, dello spettacolo. Del settore. Ha ricevuto la sua bella cartella pazza? Assolutamente sì, una bella cartellona che ovviamente, come insomma tutte le cartelle, soprattutto se sono molto alte, ti fanno spaventare mortalmente. È chiaro che ovviamente sì, tutto si è risolto appunto tramite l'ausilio ovviamente del commercialista che fisicamente ha preso tutti i documenti, le certificazioni EMPALS, che ovviamente mi pare insomma che non siano nemmeno obbligatorie da avere, da possedere, cioè qualcosa che tu devi avere. E poi insomma però non è obbligatorio, quindi poi verranno a casa tua a chiederti qualcosa, se ce li hai ben per te, se no... Beh, però non sarà obbligatorio, ma se lei non li avesse avuti, come li aveva anche Alessandra, sarebbe stato più complicato naturalmente. No, assolutamente, ma non essendoci un vincolo nemmeno per chi le deve produrre, ovviamente se una realtà con cui lavori non te le vuole dare, non sa come si fanno, non sa niente, può anche dire che non te le dà. E tu che cosa fai? Gli obblighi, ne firmi una falsa? Esatto, vabbè, questo tutto si è risolto ed è incredibile che, come dire, due enti che sono stati unificati 4 anni fa siano in queste condizioni, viaggiano in queste condizioni dove tutto è digitalizzato, dove tutto è a video, dove tu lo puoi vedere, e in realtà quelli che devono controllare no. Ribadiamo questa richiesta di incontro. Io proverò a chiamarli anche per informazione dovuta rispetto alla trasmissione che abbiamo fatta. Vediamo se posso essere utile. Intanto, certo, deve, prego. Volevo ricordare semplicemente questo: che fino a quando c'era l'EMPALS, noi avevamo accesso ai nostri dati previdenziali, cioè alla banca dati che riguarda ognuno la propria pagina. Praticamente i dati dei nostri contributi erano aggiornati fino a un mese, due mesi prima. Adesso non è più così, ci sono dei buchi mostruosi, manca parte del 2014 e quasi tutto il 2015. Ah, però. Ma è a macchia di leopardo la cosa, perché magari hai quello... Tito Boeri, non è solo CDA che ti manca, qui mancano ancora cose fondamentali. Prometto a tutti i lavoratori di questo settore, ma anche per altri, se ce li segnalati, visto l'ammontare che vi ho detto delle cartelle pazze, che siamo qui per darvi voce e per sentire l'amministrazione tributaria e l'INPS in questo caso. Grazie a Luca Semeraro, Alessandra De Luca, continuate con la 24, appuntamento con me, Alessandro Domani alle 8:20, ad attenti a noi due.